homofobic tarantateko. Nelle romani un atto tassello per divulgare indifferenza. Basta! Go be right for Gola! DIY dal 1996, ragazzi, homophobic. Spendi. Grazie a tutti. Grazie a tutti gli avventori di questa sera, non ce l'aspettavamo una roba così. Dopo un bel po' di tempo a Roma siamo rimasti abbastanza soddisfatti da questa serata e per questo voglio brindare alla vostra salute. Alla salute! Questo ricominciamo da qui. Ricominciamo da qui, nel computer di stare in date. Capone nei torrenti marci, la vita che scorre tu fini di lame tagliente. Per alzare i muri su tumori di specchi rossi, mentre il vecchio mondo sarà perde. Sarà perde le verità rinchiuse, cristalli di ghiaccio che fonde. personalizzazioni, personalizzazioni. A risorreggi del vento, che non si guarda mai, la voglia è il momento. Adesso al cercato, la voglia è il momento. Io non posso che dirti, non posso che dirti. Ricominciamo da qui, perché da qui si vede il fondo, perché da qui si ricomincia a sognare. Sognare io non perdere mai. Da qui, perché da qui si vede il fondo, perché da qui si ricomincia a lottare. Cercare di non perdere mai, cercare di non perdere mai. Sì. Per lo spazio conquistare, per continuare a lottare. Ci sono i chissà quale cassetto. Nulla tra nulla che passa, che passa. Nulla tra nulla che ne andate a noi. A lanciare i muri su tumori rispetti rotti. Mentre il vecchio mondo cade a pezzi, cade a pezzi, cade a pezzi. Ricominciamo da qui, perché da qui si vede il fondo, perché da qui si ricomincia a sognare. Cercando di non smettere mai. Da qui, perché da qui si vede il fondo, perché da qui si ricomincia a lottare. Cercando di non smettere mai. Cercando di non smettere mai. Boom! A parte la sauna. Lascia la birra, lascia la birra, lascia la birra. Lascia la birra. Posso? Cerco di rivedermi dentro. E nel cesso c'è resta di noi. La scuola e ci rimbomba contro. Maledetta sensazione che attraversa, affondano gli sguardi alle città. Qualcuno ucciso, ma niente poco più. Anime svendute nella peggior cattività. E adesso piangi, perché subiamo la realtà. Sì. Yeah. Maledetta sensazione che attraversa. Come sempre tutto tace, tutto sempre uguale. Pagine su pagine di sole la nostra. Come sangue piangi, piangi pure finché vuoi. Come ve lo ritrovati, come rovini d'inferno. Finché non ho provato la mazzappa della sconfitta. Dicendo di non provare la mazzappa della sconfitta. Ah, nelle nostre città imparando tanto il vento che attraversa. Prima o poi finirà, prima o poi finirà la nostra complicità. Basta, ti prego, lasciami stare. Prima o poi finirà. Se tutto ci sperasse, tutto fosse ancora niente. Sono qui, adesso. Cammino a mezz'aria e tocco il fondo. Fragile, nessun posto è raggiungibile. I miei piedi come felici. Aspetto, aspetto. aspetto qualcosa che forse non verrà mai. Che perisce ama come nessun altro. Che perisce ama come nessun altro. Come un volo alle tue cose uccide. Aspetto qualcosa. Aspetto qualcosa che forse non verrà mai. Come un volo alle tue cose uccide. Aspetto qualcosa. Aspetto qualcosa che forse non verrà mai. Pezzo di petto nel dito, fondo di unghie affilate nel petto. Resto a pensare, non riesco a capire il momento giusto. Modo da dire, ora lo vedo riflesso. La rabbia è mio amore che brucia per questo. E adesso è tutto più semplice, semplice. Come un valore c'è l'occhio che uccide. Aspetto qualcosa. Aspetto qualcosa che forse non verrà mai. Grazie, grazie. Comunque queste erano canzoni nuove di un disco seminuovo che trovate al banchetto là a fianco alla compilation, Non un sasso indietro. Quindi se vi rimangono spiccioli dopo che avete comprato la compilation, comprate anche il disco delle Obophobic. All right? Yeah! E questo disco è uscito anche grazie a Radio Onda Rossa, a Dario Fantasma, a cui va un nostro sentitissimo grazie. Se questa è vita, ci siamo in un detto. Noci di corpi e viva il forte prenestino. Se porro il pensiero, aspetta quello che sono, e a quello che siamo stati. Qui, in queste terre nessuno a giocare con il fuoco. Se non aspetto mai di bruciare, che non aspetto mai di bruciare. Una strana questa voce perché dice di abbandonare. Quest'oggi perché è difficile. Yabba! Rimane detto potendo te, pagando con te stesso, e con un triste concedersi. Ma questo è la tua mente. Rimane detto potendo te, pagando con te stesso, e con un triste concedersi. Questo è la tua tempo. Quello so. Questo è ancora il tuo tempo. Sere di nessuno, sere di nessuno. Il nostro. Sare di nessuno, sare di nessuno. Gracias. Un ringraziamento particolare alla Rozza Crew che è venuta da Taranto in massa per questa situazione. Marcolino, eccetera. Ma non abbiamo. Ormai siamo vecchi, l'evoluzione è finita. Rinuncerò! attimo, il batterista non respira. C'ha il polpo. Durante l'occupazione nazista, anzi, no, durante il periodo nazista, proprio quello di Hitler, quando gli ebrei venivano deportati, in pratica i cittadini tedeschi si lamentavano del fatto che alle stazioni ci fossero così tanta gente poveraccia, sporca, insomma. Il governo tedesco ha ben pensato di sigillargli i finestrini ai vagoni. Nei CIE sta succedendo più o meno la stessa cosa, e chi si cuce la bocca sta dicendo a ognuno di noi che stanno sigillando i finestrini, e forse non li stiamo vedendo. I sogni a naufragare. Ma che cazzo è sto rumore? Tutti insieme, ragazzi, al mio tre, i sogni a naufragare. 1, 2 e 3. Da sempre i sogni a naufragare. Di più. 1, 2, 3. Da sempre Torrezza Mazza. Arenega, il 10° di libertà. Occhi che raccontano il braccio in fronte. Di te le lontane, di invece lontane. Di uomini e donne costretti a scappare. Vuol dire uccide le memorie di povertà, da condizioni infami, da condizioni insopportabili. Nel mare naufragare, iniziano a naufragare. E adesso l'orizzonte è basso, l'orizzonte è basso. E venite a formati di turismo, la gran accoglienza, rinchiudere i corpi, a rinchiudere i corpi. Non so come li facciamo, basta per l'efficienza. C'è sempre strada, c'è. Bisogna naufragare, bisogna naufragare. Bisogna naufragare, bisogna naufragare. Basta, non ne possiamo più di politicanti e sfruttatori, di pentagonzini, di tutti i loro servi. E ora che il mare è in tempesta e la paura di sopravvivere, decine morti contro. Da cure ci raccontano di solidarietà, di fede e libertà. Porche menzogne che fanno sfondo alla rassegnazione. Basta, basta, basta, ora basta. Nel mare naufragare, bisogna naufragare. Aspetta, Marcoli, più veloce, Marcoli. Boom! E voglio macchiare il chiostro, ma voglio la pista, questi anni dentro stabilisce, amo la vita. Boom! Parla di sole, di cielo e di cuore, segnati in mezzo, dove siamo che sia. Remare contro i muri, remare contro tutte. Tempo che corre come il treno impazzito, e non c'è da fermarsi, e non c'è da fermarsi. Boom! Thank you. Come dicevo prima, dal 1996 che siamo al ciocco, come dite qua a Roma. E ne abbiamo fatte cotte, crude, manifestazioni, lotte. Però eccetera, è la prima volta che suoniamo al dischi, Forte Prenestino. Concerti. È la prima volta che suoniamo al Forte Prenestino ed è veramente proprio emozionante. Proprio come quando fa il saggio di fine anno, cioè presente, è uguale. Vabbè, e comunque, a parte l'interruzione come face sempre, volevo dire che in tutti questi anni che abbiamo fatto queste cose non abbiamo mai avuto niente da rinnegare. E questo è un pezzo che parla proprio di questo. È dedicato anche alle Cesi. Sguardi che tagliano il silenzio, in istanti di forte emozione. Niente da negare, non ho niente da rinnegare. Compromessi, azioni istantanee. Quando il passato resta ancora nel presente, resta anche l'azione. Di sintonia e vendetta, per una vita già in galera. Per una vita già in galera. Ricompensarla in ogni maniera. Siamo in un presente in situazioni tragicanti. Rialzarsi in piedi e calare la notte. Negare. Non ho niente da rinnegare. Ricurgito un passo senza sapore. Ogni giorno passa il tempo. Ore, ore. Aumenta di smisura il peso sulle spalle. Guardati le mani, non piangerti alle spalle. Non piangerti alle spalle ancora. Si tratta della mia vita. Uno di questi giorni nel mio tempo che se ne va. Lasciami con la pioggia. Non piangerti alle spalle ancora. Si tratta della tua vita. Il mio tempo che se ne va. Il mio tempo che se ne va. Che se ne va. Vivo di questi giorni e mi accorgo che il mio tempo è che si sta trascorre. Mi porta via lontano, illudendomi che tutto possa andare bene oggi, che non è mai tardi. Oggi, che non è mai tardi. E mi accorre la gabbia, il rispetto, il dolore che trova adesso, lo strappo via dal cuore. Siamo quasi alla fine, che sia chiaro. No, bugia, siamo più della, oltre la metà, mettiamola così, oltre la metà. Ci abbiamo qualche pezzo vecchio e qualche pezzo nuovo. Fermo Immobile parla... Di che parla Fermo Immobile? Cadamo, veracà. Posso? È vero, oh. Parole di Luca, musiche di Obofobi. Posso? Passati a comprare pagine di un libro, sono nel suo foglio per ricavarne tutto. Fermi mobile, vai vai mobile, per trovare vuole batti in una testa, condotta dai ricordi, condizionata dalla gente stava in orologi, dove va il tempo che ho perso. Fermi mobile, fammi mobile, fammi mobile. Cerco di trovare le risposte perché, e perché senza risposta, con un salto nel buio per un altro libro. Fermi mobile, fammi mobile, fammi mobile, fammi mobile. Il movimento L'Ottava è stata la scuola politica degli ultimi 10 anni. Un abbraccio a tutti i compagni arrestati con l'accusa di terrorismo. Ragazzi, dal bar una cortesia, abbiamo finito la birra e l'acqua. Questo è lui. E anche una volgare acqua. No, l'acqua non l'abbiamo finita, la birra. Vai, vai. Grazie Guagnù, bella, bella, bella il forte prestito. Vittoria. Dalla regia mi dicono gli ultimi due pezzi, ragazzi. dedicato all'Ilva, che non produce solo diossina ma anche benzapirene, pirolio e acciaio. A me poi lui. A chi resta, a chi va via, c'è Vagadì. È una condanna, il posto più bello. Andiamo. Della Mania Grecia. Posso? Sapeste, sapeste. La Mania. E questo pezzo è dedicato pure a Mastello. A Mastello, che è un vecchiaccio come noi e come l'acciaio che resiste. È figlio della Mania Grecia. Forere. È figlio della Mania Grecia, Mastello. Ricordo giorni e bisogni di risate, scotti e sogni. Adesso è diverso, perverso. Le notte mi te amare scontate, mai fallite. Ancora in piedi, ferite aperte, cocche e sangue amaro, ideare il futuro tra passato e presente. Cerchiamo quel che ancora non è perso, come l'acciaio che esiste, e il mio cuore che resiste. Questo è realtà, i desideri che vengono via lontano, come l'acciaio che resiste, e il mio cuore che resiste. Che per non mi allontano. Noi qui ancora in piedi, per sentieri non ancora percorsi, a nutrirci dell'esistente, e non ci circonda. Vedo che ci circonda. Noi qui ancora in piedi, per sentieri non ancora percorsi, ma non trici l'esistente, per non ci circonda, per non rimetti circonda, come l'acciaio che resiste, l'amore che resiste, i desideri che per non mi allontano, come l'acciaio che resiste, e nel mio cuore che resiste, che per non mi allontano. Grazie, grazie, grazie. Il prossimo pezzo è l'ultimo. Ah no. Chitarra e voce. Ok, non respira, non respira, non respira, un attimo. Facciamo come quelli importanti, no? Vanno via, poi torniamo. Ci facciamo una botta e poi torniamo. Il batterista non respira, lo sta arrivando. Due minuti di tempo, ragazzi. Non si può vivere senza respirare, abbiate pazienza. Ci facciamo un brindisi e poi facciamo l'ultimo pezzo. Non si può vivere senza respirare. Arriva, arriva, arriva, ragazzi. No, no, non li sappiamo fare. Ah, che non respiro, porco Dio, ho bisogno di ossigeno. Comunque fate una cosa, siccome è veramente quello che tra tutti e quattro noi si spacca più di tutto il culo, questo applauso le lo dovete fare solo a Luigi. Dai, lui, invece arriva da che ha fatto. Grazie, Vagliù. Andiamo. Oh! L'ultimo. Sì! come di velo adesso. Tra le squadre si guardi più. Continua a crescere, continua a cambiare i tuoi modi di fare. Forse in bene, forse in male, ma il desiderio tu non lasciare che gli altri inquinino. Inquinino i tuoi pensieri. Decisioni che portano a quando un teatro resti sempre voluto essere. Ragazzi, visto che siamo venuti fino a Roma, l'ultimo pezzo lo facciamo, però non facciamo un pezzo nostro, bensì degli SFC, che sono dei nostri fratelloni, diciamo. E anche loro sono presenti nella compilation Non un sasso indietro. No? Avete comprato la compilation? Avete comprato la ultimo compilation? Brano di questo concerto, sempre in diretta dal Forte Prenestino. Su Radio Onda Rossa, su Radio De Forte, continua questa collaborazione e con questo pezzo vi salutiamo e rinviamo alla prossima puntata. Ricordiamo che l'evento è in solidarietà dei compagni Nottardo che al più presto saranno liberi. Dai De Forte! Quella che chiami, società civile, per tutta risposta mi fatti pigiare, da cui siete posto la mia educazione. Quanto sbarre, me lo ricordo che ho. Quanto sbarre, è un motivo non lo so. Oh, oh, oh, oh. La puoi chiamare il soliziano, e ti dà una mia speciale. Se cambia il nome, ma è sempre uguale, ti spazzano dentro, poi gettano la chiave. Quanto sbarre solo questa società. Quando spare per la lotta mi lancia. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. SFC, SFC, Obofobic, da Taranto vi saluto. Ciao, ciao a ragazzi. Tutti, grazie, è stato bellissimo. Dai, un bacio, un abbraccio. Dai, dai. Oh, hey, Gigio, scusa.